Buonasera Radio Città Fujiko, in compagnia di Max Macchia per 451 frammenti sonori. Ebbene sì, ho tornato dalle vostre parti, perlomeno insomma in diretta. Poi ci potete ascoltare sia 451 frammenti sonori che 451 intersezioni invece attraverso il blog, quindi 451frammentisonori.blogs.org. Scusate insomma le ripetizioni, ma sono quasi dovute insomma per darvi le indicazioni per poterci ascoltare quando e come vi pare. Questa sera per 451 FS, così non Ferrovie dello Stato, anche perché non ci sono quasi più quelle dello Stato. E forse non si sa neanche se è un male, ma non è neanche un bene. E questa sera, appunto, dentro questo tentativo di viaggio dentro un altro elemento, dopo la scorsa trasmissione abbiamo dedicato all'acqua, water and noise, questa sera 451 aere, ovvero quello che è l'aria, quello che è l'elemento, uno degli elementi fondamentali. Non si sa poi se magari concluderemo e faremo tutti e quattro gli elementi, chissà, magari metteremo anche a fuoco il fuoco, appunto, e faremo anche qualcosa di più terrestre, dedicato alla terra. Giochini di parole per dirvi che questa sera sì, saremo aeroformi per tanti aspetti, sia in termini climatici, sentiremo anche un futuri rumori dentro questa idea molto vaga, come d'altronde non può essere così, quella dell'aria, dell'elemento volatile, tra l'altro, e quello però dell'ossigeno, anche quello del soffio vitale, tutta insomma i disegni costruiti dagli antropologi per studiare le società non soltanto premoderne, ma anche insomma quelle attuali, per molti versi appunto sostrato, anzi per tutti i versi sostrato di quelle appunto che sono venute prima. Ovvio che sì, bisogna imbattersi appunto anche in quello che è il soffio vitale, dentro le filosofie orientali, soprattutto quelle induiste, c'è questa idea appunto di primordialità, di inizio attraverso il soffio, poi diventa vocale questo soffio, anche quello, no? E il soffiare appunto e poi dopo articolarlo, e quindi qualcosa che diventa a noi familiare come vocale. E aria anche come mezzo anche di trasporto, se vogliamo, e sentiremo anche un disco veramente splendido dedicato a uno dei mezzi più immaginari e che più e ancora adesso lo riescono a fare, a muovere la nostra fantasia, quello appunto dell'aereo. E anche aria come trasmissione, l'etere, lo stiamo facendo, di fatto la radiofonia funziona appunto in questa maniera, a meno che non stiate ascoltando in streaming la faccenda, ma anche lì poi funziona comunque in una certa qual misura anche l'etere, comunque senza stare poi a complicare troppo il discorso, o forse insomma per dare inizio alle danze o ai voli, anzi per meglio dire, di questa sera di 451. Iniziamo con Graham Lamping insieme a Jason Lescalé, e Jason Lescalé che compare nelle scalette, scusate l'assonanza, il giochino di parole, di assonanza più che altro, e compare nelle scalette di 451 da un po' di tempo a questa parte. Perché? Perché Lescalé è uno dei personaggi più inquieti, e quindi da queste parti piace in particolar modo. Inquieto nelle sue sperimentazioni elettroniche, nelle sue sperimentazioni legate al suono, legate al suono dentro l'ambiente, e anche a operazioni concettuali piuttosto interessanti, come riprendere il disco dei Big Black come copertina, farlo diventare poi lavoro noise importante, quindi dal noise rock poi al noise elettronico o comunque anche vicino per molti versi all'elettroacustica, al field recording. Personaggio tra i più vulcanici di questi ultimi anni. E Graham Lamping viene fuori dal giro dell'improvvisazione radicale, ma anche di quell'arte concettuale musicale, quella poesia sonora che l'ha visto appunto proprio partire con Poem for Voice and Tape, lavori fatti in quel caso in maniera solitaria, che ci riportano appunto anche qua al soffio, no? Come accennavo prima, con Jason Lescalé e Graham Lamping si danno a un air supply, e così quindi è un viaggio anche paradossale per molti versi. Sono due artisti che lavorano anche spesso sullo scherno, quasi più Lescalé, ma Lamping non manca in questo senso, seppur sempre con rimandi più, volendo, più poetici, e Lescalé ogni tanto insomma si sbraca nel senso buono del termine, che insomma ci porta anche Lescalé è quasi un odore di punk, non musicale ovviamente, ma come attitudine, come forma punk più elevata, ur-punk potremmo dire, il punk delle origini, quindi anche come distruttore, e anche appunto come invece eccezionale compositore di materie, a questo punto anche aeroformi, e con tanto di ambientazione che Air Supply ci porta, e per molti versi riesce anche a trasportarci, a farci appunto quasi alzare da terra per appunto questa dimensione, tra l'altro assolutamente laica, non senza insomma religiosità o filosofie insomma che ci riportano poi a teologie, oppure insomma misticismi vari, anzi sono piuttosto in questo senso terrestri, seppur volatili, partono dalla terra appunto per alzarsi i due grandi, Graham Lamping e Jason Lescalé, per iniziare appunto questo 451 aereo, e speriamo insomma di volare alto, oppure se dobbiamo volare basso, perlomeno molto velocemente e con appunto i sensi aperti a questo grande momento, uno dei momenti più travolgenti, no? Se pensiamo appunto al grande sogno che c'è sempre stato rispetto all'aria e al volo appunto, ma comunque Air Supply ci dà l'introduzione a questo piccolo viaggio extraterrestre a questo punto, se parliamo di aria, di volo eccetera. E abbiamo ascoltato Graham Lamping insieme a Jason Lescalet, appunto, per questo Air Supply, un volo, appunto, una ricognizione aeroforme musicale da parte, appunto, di due personaggi assolutamente eccezionali, dentro, appunto, queste musiche che si cibano veramente di mille e più cose e faccende che vanno dal trattamento del suono, quindi tutto quello che riguarda il suono nell'ambiente, come il suono invece è composto, improvvisato, il suono che diventa noise per alcuni aspetti. In questo caso, appunto, l'aria diventava, appunto, materia impalpabile, una sorta di ambientazione, un'astrazione musicale non particolarmente poi melodica, ma con questo senso armonico, appunto, lontano, che forse ci porta anche, ci porta direttamente per molti versi a Matthew P. Hawkins, terzo autore che mettiamo da canti magnetici per futuri rumori che ovviamente vi invita a mandarci materiale, soprattutto via file, visto che è la cosa più semplice. Trovate le indicazioni su 451frammentisonori.noblogs.org, e lì andate, appunto, alla sezione futuri rumori e potete, insomma, indirizzarci materiale di vario tipo. Ovviamente, insomma, cerchiamo materiale legato alle sperimentazioni che potete sentire attraverso il blog, se non ci conoscete o ci conoscete da poco, ma che vanno un po' da tutte le parti, sfuggono anche a volte e creano, insomma, anche situazioni creativamente nuove, comunque musiche che, appunto, volete, sentite, che vanno verso, appunto, un'idea sperimentale, mandatecele, dentro futuri rumori cercheremo di inserirle. Per canti magnetici, già trattato con Andrea Penso e Casas l'altra volta, abbiamo trattato un suono per molti versi più terreno, ma terreno nel senso di acquoso, di liquido, quindi, insomma, non di sopraelevato, un suono che andava dall'inquieto e anche, appunto, dall'aspetto fantasmatico, diremo, dell'acqua, l'acqua nel pozzo, con tutto quello che, appunto, è il rimando, evidentemente non può essere che altro, un po' orrorifico, no? Che ha il pozzo, oltre che essere, insomma, fonte di sostentamento per vari secoli, se non ancora, insomma, ma non tratteremo, insomma, faccende idrauliche, che non vi preoccupate, anche perché questa sera, appunto, siamo in aria. E con Casas, appunto, abbiamo ascoltato questo acqua del pozzo sonorizzata, anche con elementi trattati del loop concreti. Andrea Penso, che lavorava più sicuramente su una poetica del suono, un po' anche, insomma, segnando quello che è il percorso di canti magnetici, tra l'altro insieme agli altri due Cannibal Movie, così autori ed editori, potremmo dire, di questa bella e nuova, tra l'altro, nuovissima realtà sonora, etichetta che vede anche Matthew P. Hawkins, che sarebbe Matthew Phillips Hopkins, con un lavoro sulla nebbia. Qua veramente ci sono tutti gli elementi, anzi tutte e tre, manca, insomma, l'elemento legato al fuoco, perché quando parliamo di nebbia, in questo caso Fog Studio, appunto, splendido lavoro di Matthew P. Hawkins, trattiamo di quel fenomeno particolarissimo che quando una nube viene a contatto con il suolo, e quindi costituendo quel la famosa, insomma, effetto di non visibilità, con quelle goccioline d'acqua, cristalli di ghiaccio, potremmo dire, sospesi nell'aria. Quindi ci sono tre elementi addirittura dentro il fog study di Hopkins, elementi tra l'altro trattati veramente con grande capacità nel trattamento del suono, e anche proprio capacità nel creare coinvolgimento nell'ambiente, veramente quasi un tuffo nella nebbia. Poi tra l'altro diremmo anche piuttosto attuale, visto queste giornate tra novembre, anzi siamo già in dicembre, piena appunto di foschia, se non addirittura appunto di nebbia. Ma d'altronde, insomma, siamo in città, soprattutto dalla parte bassa, insomma, che vive di grandi momenti non visibili legati appunto alla nebbia. Fog Study, pubblicato per ora come file MP3 e da Canti Magnetici, si muove ed entra dentro questa materia impalpabile, e con questo senso anche piuttosto così riflessivo, forse anche riportato da quello che è l'elemento proprio principale, forse quello più visibile, che è appunto quello dell'invisibilità, quello della difficoltà del vedere, un elemento paradossale che ha dato anche qua, potremmo dire, forti immaginari, non soltanto orrorifici, ma anche fantastici, quello che può succedere nella nebbia, nella non visibilità, quindi anche tutto quello che può essere inconscio, un'altra organizzazione non mentale della realtà. E Hopkins, appunto, da questo Fog Study per il nostro e il vostro, soprattutto, speriamo che lo diventi sempre di più, Futuri Rumori. Thank you. Fog Study da parte di appunto Matthew P. Hopkins, Matthew Philip Hopkins, lavoro che veramente fa entrare una sorta di invisibilità, non, nel senso di non visibile, e quindi anche di attenzione forse più al suono, all'ambientazione, e d'altronde questo australiano dentro questo nostro e vostro Futuri Rumori è proprio legato a uno studio sonoro della nebbia, soprattutto come contatto e come capacità empatica di appunto stare nella nebbia e stare dentro un suono che evidentemente è un suono sottile, un suono che si fa aereoforme di conseguenza, seppur è un fenomeno meteorologico assolutamente eccezionale, proprio per gli elementi che coinvolge, dicevamo prima, appunto acqua, terra e aria, tutti insieme, questa nube che appunto va a incontrare la terra per creare questo sorta di vapore acqueo. E Hopkins, da buon anche australiano se vogliamo, personaggi che se pensiamo a molti musicisti, ma anche a molti registi, a molti così autori australiani, hanno questo fortissimo, non soltanto loro ovviamente, ma tutti gli australiani hanno un fortissimo contatto con la natura, cioè un aspetto preponderante con appunto l'elemento naturale, quindi viene quasi da sé che un australiano abbia questa grande capacità di addentrarsi dentro un fenomeno naturale come appunto quello della nebbia, tra l'altro con anche un senso del trattamento del suono veramente particolare, con questo anche capacità di trattare il field recording, quasi la registrazione impalpabile, quasi inaudibile, appunto il sottile che riesce a fare emergere, però non facendolo diventare appunto noise, ma ambientandolo, quindi ricreando appunto anche in termini immaginativi questa nebbia. Fog Study, quindi, dentro Futuri Rumori per Canti Magnetici. Avremo modo di continuare insomma questo percorso di Futuri Rumori tra due settimane, così vi rimando già non alla prossima ma all'altra ancora, con faccende insomma che magari faranno spostare la cosa, ma non ci sta che bene, anzi tante di più e tante più sperimentazioni da queste parti non portano che grande senso di apertura e appunto anche di creatività poi rispetto a quello che ci può essere, no? All'angusta attualità che ci viviamo in questo momento, che però ha anche appunto momenti di grande fuoriuscita come sentiamo in molte musiche da queste parti. E da Matthew Hopkins, australiano, giovane sperimentatore, un giovane sperimentatore losangelino, Casey Anderson, proveniente proprio da Los Angeles, con un trattamento del suono, tra l'altro anche egli si può includere dentro quei quegli studiosi, quegli sperimentatori in questo senso del suono, in questo caso il field recording non air, no title, no air, paradosso anche che viene anche da collaborazioni del giovane autore con John Vise, ad esempio, quindi anche lui come l'escalier tra grande composizione e grande scomposizione. Citando anche un'intersezione di qualche tempo fa. Quello che emerge poi da questo No Title, No Air, e questo va anche a giocare con l'ambiente sonoro e con l'area che si viene a creare in un momento anche di chiusura, quindi non stiamo parlando né di nebbia né del Air Supply ascoltato prima da Lampkin e l'Escalier, ma di un ambiente chiuso, ovviamente di un'area che non può che appunto quasi restringersi, ma in questa restrizione poi ambientale c'è anche tutto il gioco appunto di field recording, di rumori che vengono così a creare anche appunto e a ricreare probabilmente questo ambiente domestico di Casey Anderson, lavoro che si basa tanto sull'improvvisazione quanto sull'installazione sonora, quindi c'è anche questo aspetto assai interessante di dialettica tra le due cose. Ci andiamo appunto ad ascoltare per qualche minuto questo ambiance sonore, di tanto per diventare quasi canadesi con questo francesismo, ma in realtà siamo nel sud degli Stati Uniti, quindi in quella di Los Angeles, con appunto questo non air, questa mancanza di aria che però non soffoca, anzi da quasi adito a momenti fantasiosi, ricreativi perlomeno, come dicevamo prima. Yeah.